come un frullo d'ali il ponentino si sente passare. Va da Monte Mario al Palatino le stelle ad estare, e piano piano piano già dorme tutta Roma, si sente solo il fiume che va. Chi ti può scordare notte romana, serenità del cielo blu pieno di stelle? Tu fai sospirar chissà lontana e sente il cuor desiderar le cose belle. Tu sai regalar sogni d'amore ed incontrar felicità con gioventù. E per ogni sogno che s'avvera, notte romana, la primavera ci porti tu. Felicità con gioventù, e per ogni sogno che s'avvera, notte romana, la primavera ci porti tu. Dormi, dormi, Roma mia, porta un sogno nel mio cuore.